Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi, grazie per essere in nostra compagnia. Sono le 11.05. Prima di andare a sentire i titoli del nostro sommario, ringrazio Giorgio Mattei in regia, la parte tecnica, e come sempre Laura Banossi in redazione. Quando l'intestino fa i capricci, scopriamo insieme le cause del suo malessere per aiutarlo a comportarsi bene. Donne, attente al tacco tsubo. La moda spesso è nemica del benessere dei nostri piedi. Intestino, sovente, diciamo la verità, lo tiriamo in ballo e per la maggior parte dei casi per lamentarci di lui, che fa i capricci, che lavora poco o lavora male. È proprio in estate che i problemi intestinali si acuiscono, ma spesso noi preferiamo tenerli nascosti. Soffriamo in silenzio, ci curiamo da soli arrangiandoci con cure fai da te. In entrambi i casi peggioriamo la situazione. Allora oggi direi, ricominciamo tutto da capo, cerchiamo di capire per bene che cosa spinge il nostro intestino a lavorare male e soprattutto cosa possiamo fare per aiutarlo a riprendere il ritmo giusto. Intanto raccogliamo qualche notizia su di lui con la nostra scheda. Hai mal di pancia improvvisi, simili a crampi? Noti sangue nelle feci? Ricorri ai lassativi per aiutare il tuo intestino a funzionare bene? O soffri invece del problema opposto? Ti capita in alcuni periodi di dover correre più volte al giorno in bagno? Ti lamenti per la pancia gonfia e dolente? Allora chiamateci subito, il nostro numero verde è come sempre 824 0024. Potete anche mandarci come sempre i vostri messaggi 349 238 6666. Oggi abbiamo in linea il professor Antonio Gasbarrini, associato di medicina interna all'Università Cattolica Sacro Cuore Policlinico Gemelli. Professore, buongiorno e bentornato. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Allora professore, dolore, diarrea, stipsi, attenti direi a questi segnali che possono anche essere presenti in modo isolato o in combinazione tra loro, ma noi ne verremo a capo, vero professore? Assolutamente, speriamo. Allora, iniziamo a fare alcune puntualizzazioni che magari aiutano anche i nostri ascoltatori a così avere un quadro della loro situazione ed essere quindi pronti a descriverci il loro problema. Beh, innanzitutto diciamo che vi sono due patologie di cui parleremo oggi. La prima è la stitichezza, che è diciamo un disturbo della defecazione con in qualche modo una inconsistente sensazione di svuotare l'intestino, mentre la diarrea è un disturbo ovviamente diverso, con un'aumentata quantità giornaliera di feci. È interessante osservare che però nella nostra giornata e la maggioranza dei pazienti alterna spesso le due condizioni e si parla pertanto di alvo alterno, cioè ci sono dei periodi di stitichezza e periodi di diarrea. Allora chiediamo ai nostri ascoltatori di mettersi in contatto con noi, il professor Gasbarrini a vostra disposizione 824 0024, raccontateci come lavora il vostro intestino. Una mela al giorno. 全国我慢ファンの皆様お待たせいたしました。世紀の爆笑巨編。E non vi sto proponendo una lezione di giapponese, mi basta per ora che vi ricordiate un nome, Tacco Tsubo. Così oggi viene ribattezzata quello che un tempo genericamente chiamavamo crepacuore o più di recente sindrome delle donne stressate o cardiomiopatia da stress. Se ne parla da qualche anno in realtà, ma adesso i ricercatori ne sanno di più. È un evento che simula l'infarto miocardico, ma si differenzia da quello classico per alcuni aspetti, soprattutto perché le coronarie sono integre. C'è uno studio tutto italiano che ha coinvolto i centri dal nord al sud della penisola ed è arrivata a risultati molto interessanti, tanto che è stato pubblicato su una prestigiosa rivista di cardiologia, il Journal of American College of Cardiology, di cui vi voglio parlare oggi. E allora per questo ho invitato il dottor Rodolfo Citro, che è direttore dell'Ecolab dell'ospedale di Vallo della Lucania, che ha coordinato lo studio e che è proprio il primo autore dell'articolo scientifico. Dottore, intanto complimenti e buongiorno. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Dottore, partiamo dal nome. Tacco Tsubo in realtà è un vaso in cui i pescatori giapponesi mettono i polipi. Allora la domanda, come si dice, sorge spontanea: cosa c'entra questo vaso con il cuore? Esatto, sì, c'entra perché questo vaso ha un fondo anforico ed un collo piccolo, che in realtà ricorda l'aspetto che assume il cuore nella fase acuta della malattia, quando la punta del ventricolo sinistro si ferma e diventa globosa, mentre i segmenti basali si contraggono vigorosamente, simulando appunto un vaso con fondo largo e collo stretto. Dottor Citro, siamo soprattutto noi donne a essere a rischio, specie se stressate, in menopausa, e la probabilità di imbattersi in questo evento aumenta in particolari periodi dell'anno. Ed è qua il vostro studio che presenta una novità. Infatti, il vostro studio, che è consistito in un'analisi di cronobiologia condotta dal professor Roberto Manfredini dell'Università di Ferrara, che noi conosciamo bene perché viene spesso a trovarci, ha proprio permesso di studiare la ritmicità di questo evento. Sì, difatti, innanzitutto nel nostro studio, qui hanno collaborato anche il professor Edoardo Bossone del CNR e il dottor Mario Previtali del Policlinico San Matteo di Pavia, abbiamo confermato una forte prevalenza del sesso femminile maggiore del 90%. Caspita. E riscontrato un picco di insorgenza della sindrome che è statisticamente prevalente nei mesi estivi, soprattutto nel luglio ed agosto, e preferibilmente nelle ore antimeridiane, quindi nel mattino, con una weekly variation, come dicono gli americani, cioè una preferenza settimanale per il lunedì. E questo andamento cronobiologico potrebbe in realtà essere messo in relazione con delle variazioni ormonali circadiane e stagionali che di fatto sono già state riscontrate nelle donne. Quindi le donne più a rischio, soprattutto se stressate in menopausa, luglio e agosto, mesi caldi, proprio questo è il caso di dirlo, e il giorno nero sarebbe il lunedì. Proprio il lunedì, sì. Come sempre. Ma, dottor Citro, vogliamo ricordare i sintomi e le particolarità di questa sindrome? Sì, il quadro clinico sovente è caratterizzato da dolore toracico o affanno con sudorazione e ha delle modifiche elettrocardiografiche che mimano del tutto quelle di un classico infarto miocardico acuto. E una delle particolarità di questa sindrome però è che viene innescata dai fattori trigger, fattori scatenanti, che possono essere per lo più degli stress emotivi, che vanno ad esempio dalla notizia per la perdita di un caro o notizia di perdite finanziarie, la paura per esempio per un incidente stradale o liti familiari o liti condominiali. Sono stati riportati in letteratura anche particolari stati d'ansia per esempio per un trasloco o per un intervento in pubblico, un congresso, un comizio, oppure stress fisici o talvolta anche la fase di recupero da interventi chirurgici di chirurgia non cardiaca. Quindi lasciateci stare un po' tranquille, ma questo lo dico io, ma dottor Citro, quali raccomandazioni si sente di dare alle nostre ascoltatrici? Beh, guardi, Linus diceva odio i lunedì e direi che nei mesi estivi e soprattutto di lunedì, se è possibile, godersi le vacanze. Se non si è in vacanza, vivere con ragionevole distacco, senza farsi travolgere dall'ansia, le quotidiane vicissitudini della vita. Allora, grazie dottor Citro per essere stato con noi. Buona giornata. Grazie a lei e buon'estate a tutti. Grazie. Pronto soccorso. E torniamo ad occuparci del nostro intestino. Se qualcosa di lui vi preoccupa o vi dà problemi, chiamateci. Se funziona male, soffrite di stitichezza o invece avete bisogno di correre spesso in bagno, dateci un colpo di telefono 800 24 00 24. E direi, anche se la vostra pancia avverte dolori un po' simili a dei crampi, questo magari potrebbe essere un indizio. In linea con noi abbiamo il professor Gasbarrini, che è una garanzia. Allora però, professore, io avrei bisogno che lei mi desse una definizione chiara di stitichezza e una altrettanto precisa di diarrea, perché molte persone pensano di essere stitiche, ma per il medico curante non lo sono. E la stessa sorte tocca a chi ha il problema opposto. Allora, chi si può definire stitico? Allora, diciamo che la stitichezza o la stipsi è un disturbo, cosiddetto un disturbo della defecazione, consistente, sì, e questo è il concetto estremamente importante, nella difficoltà o nella sensazione di avere un incompleto svuotamento dell'albo. Quindi non necessariamente è determinata dalla quantità di feci, diciamo in senso classico, non il peso delle feci, non è tanto importante il peso delle feci, è il fatto che una persona ha una sensazione di incompleto svuotamento dell'albo. E questo è assolutamente importante, perché dobbiamo pensare che ci sono delle patologie dove la quantità di feci emesse è assolutamente normale, ma la persona non è soddisfatta. Quindi è molto difficile dare una generalizzazione, perché dipende dalla sensazione della persona. È ovvio che la quantità di feci che noi mettiamo dipende anche dalla quantità di fibre che noi mangiamo, dall'acqua che noi beviamo, dalla sensibilità dell'intestino. Per cui credo che la vera definizione è una sensazione di incompleto svuotamento dell'albo. Sulla diarrea diciamo che è un pochino più facile, perché la diarrea diarrea è spesso legata, almeno nelle definizioni classiche, dalla quantità giornaliera di feci emesse. Noi dobbiamo, in genere, eliminiamo tra i 100 e i 200 grammi di feci. Generalmente la diarrea è proprio caratterizzata da un'aumentata quantità di feci, una diminuzione della consistenza e a volte un aumento della frequenza di scarica dell'albo. Però anche in questo caso ci sono persone che si scaricano 2-3 volte al giorno e non accusano una sintomatologia particolare, anzi lo ritengono un albo normale. Quindi diciamo che, come sempre, bisogna contestualizzare poi al ritmo che la persona ha normalmente nella propria vita. Professore, lei ha detto, ci ha dato già qualche indicazione, no? La quantità e la qualità anche delle nostre feci dipende da tante cose, dalla nostra dieta, dal contenuto di fibre, dall'acqua che beviamo, dalla quantità di acqua che beviamo, possiamo dire dal nostro stile di vita. Ma perché il nostro intestino è così sensibile, reagisce così anche ai cambiamenti, non solamente di dieta, allo stress, ma anche alle variazioni di temperatura? I problemi di stipsi in estate aumentano. Assolutamente sì. Allora, partiamo da questo presupposto. Noi assumiamo all'interno della nostra bocca con l'alimentazione tantissime sostanze e fondamentalmente l'evacuazione è determinata dal prodotto terminale, no? Tutto quello che non è stato assorbito deve essere eliminato. Non c'è dubbio che l'alimentazione base nostra dovrebbe essere un'alimentazione, questo d'altronde l'uomo in qualche modo, essendo un animale ed essendo settato su quello che c'era in natura una volta, cioè soprattutto frutta e verdura, perché fondamentalmente questa era la base della nostra alimentazione, ha un albo e quindi un intestino creato proprio per eliminare fondamentalmente un residuo di scoria. Sì. È ovvio che se nella nostra alimentazione, questo è classico dell'alimentazione dei paesi occidentali, eliminiamo moltissimo, abbassiamo moltissimo la quantità di fibre e quindi fondamentalmente di frutta e verdura, andiamo incontro a tutta una serie di problematiche che sono proprio anche determinate da come il nostro organismo è fatto. Un altro concetto, nella vita occidentale introduciamo tutta una serie di variabili, ha detto molto bene prima il concetto, a parte che dello stress, ma anche delle veloci variazioni di temperatura, pensiamo all'aria condizionata, alle condizioni di sì, ho un messaggio di Antonio molto divertente a proposito di aria condizionata, mi scrive: l'assativo più efficace per me è l'aria condizionata del mio ufficio, ringrazio correndo. Guardi, ha detto una cosa assolutamente vera, l'aria condizionata dell'ufficio è un'altra cosa micidiale, è le bevande spesso ghiacciate, nell'alimentazione soprattutto penso agli anglosassoni e agli americani, bevono sempre questi beveroni pieni di ghiaccio, no? Quindi le veloci variazioni di temperatura incidono pesantemente sulla motilità gastrointestinale. Ci sono persone che spesso quando dicono, no, copriti la pancia perché sennò devi andare in bagno, perché le variazioni di temperatura incidono sulla motilità intestinale, accelerandola o riducendola, perché non c'è dubbio, l'intestino è un organo lungo 8-9 metri, pesantemente e innervato e vascolarizzato, che risente moltissimo delle variazioni di temperatura. E poi è così sensibile il nostro secondo cervello. Stefano da Lecce, buongiorno. Buongiorno, vi ringrazio per avermi chiamato. Volevo fare una domanda al professor Gasparrini. Sì, lui è pronto. Gli faccio una domanda difficile però. Beh, oddio, è una domanda soprattutto personale, perché sì, purtroppo riguarda una mia condizione di salute che al momento, diciamo, è poco cara. Ho avuto una storia di sofferenza di emorroidi sin da quando ero ragazzino, cioè dai 14 anni. Però, diciamo, a parte il tipico fastidio, non ho avuto mai problemi, anche, diciamo, una certa regolarità. Ultimamente, però, insomma, da qualche mese, purtroppo ho dei sanguinamenti. Sì. Mi sono sottoposto anche a una colonoscopia, che però ha dato risultati negativi. Sì. Cioè, non è risultato null'altro che la semplice irritazione delle emorroidi e forte delle arachidi. Sì. Però purtroppo questi sanguinamenti sono quotidiani e creano anche un certo disagio, diciamo, perché ho difficoltà a mantenere quello che sarebbe, diciamo, il senso di svuotamento, come giustamente spiegava il professore, e purtroppo si interrompe, diciamo, certo, diciamo, l'operazione di defecazione proprio perché il sanguinamento diventa molto copioso. Vorrei sapere se c'era qualche rimedio, se si poteva curare con medicinali oppure se forse è necessario un intervento chirurgico. Grazie Stefano, stia in linea perché magari il professor Gasparrini ha ancora bisogno di lei. Professore. Beh, è una domanda estremamente importante anche perché colpisce tantissimi italiani. Partiamo dal presupposto che la stitichezza colpisce circa il 10% della popolazione italiana e se la mettiamo insieme alla diarrea o all'albo alterno arriviamo al 20-25% degli italiani, quindi un numero enorme di persone di tutte le fasce di età. Il concetto è la stitichezza, innanzitutto partiamo da un presupposto che credo che è importante puntualizzare, la stitichezza e la diarrea non sono delle malattie, ma sono dei sintomi, cioè dei disturbi di qualcos'altro, che esprimono qualcos'altro. Quindi non c'è dubbio che in questo caso è il qualcos'altro che dobbiamo andare a cercare. Sì. Dobbiamo innanzitutto dividerle tra acute e croniche, cioè acuta è un qualche cosa che non c'era, che compare nell'ultimo periodo e di qui entriamo in una dinamica fondamentale diagnostica. Quando una malattia compare acutamente bisogna capire perché è venuta. E quindi non c'è dubbio che anche gli esami che bisogna fare sono molto diversi, il livello di attenzione deve essere diverso. Quando invece un sintomo, e qui siamo alla domanda prima che ha fatto il nostro amico Stefano, quando in questo caso la presenza di emorroidi, il sangue nelle feci è un qualche cosa che c'è da molto tempo, è ovvio che il nostro livello di attenzione agli esami che dobbiamo fare deve essere diverso. Qui il problema fondamentale è questo: la stitichezza di Stefano è in qualche modo una conseguenza di una patologia dell'ampolla rettale e quindi la presenza ad esempio di emorroidi. Chi soffre di emorroidi sa bene che quando le emorroidi sono infiammate, sono congette, sono sanguinanti, la defecazione è molto difficoltosa e anche molto dolorosa. Quindi il nostro organismo cosa fa? In qualche modo la persona ha paura di andare al bagno, tende a non avere mai evacuazioni complete e molte volte quello che fa cambia la modalità di mangiare. Se noi abbiamo le emorroidi attive, eliminiamo completamente le fibre, è ovvio che andiamo meno al bagno. Questo da una parte ci infiamma meno le emorroidi, però dall'altra parte succede che quando poi evacuiamo abbiamo delle feci ad esempio più acide, più tossiche per l'intestino. Quindi questa è una patologia che va affrontata in modo integrato, cioè lo specialista deve individuare la malattia, capire le motivazioni, spiegare bene alla persona come trattarla e come gestirla. Quindi altri esami per Stefano per eliminare questo problema, perché il sanguinamento per Stefano diventa importante sotto tanti punti di vista, come quantità, come professore. Allora, diciamo questo, innanzitutto bisogna contestualizzare Stefano, parlando di una persona bisogna vedere se le emorroidi sono una conseguenza ad esempio di un'alterata dieta, sono una conseguenza di un ritmo di vita molto sbagliato, una persona, penso la persona sedentaria, la classica persona, no, che sta in macchina tante ore, non fa attività fisica, sì, è in sovrappeso corporeo, mangia un'alimentazione molto povera di fibre, ricca ad esempio di alcolici, di formaggi piccanti, di sostanze urticanti, peperone, peperoncino, è ovvio che queste sono tutte condizioni che vanno corrette, cioè le emorroidi, attenzione, le emorroidi non sono una malattia, le vene emorroidarie sono le vene che vascolarizzano l'ampolla rettale e il retto, sono assolutamente importanti per il nostro organismo. Quando però si sviluppano le varici emorroidarie e queste sanguinano, si ingrossano, in quel caso diventano patologiche, un po' come le varici venose delle donne. Ecco, infatti mi veniva questo paragone e per cui ci sta. Quindi dire le emorroidi ovviamente sì, è una terminologia che si usa in gergo. Ci capiamo però, subito, però in realtà non sono un problema, meno male che ci sono, insomma. Assolutamente sì, sono sulla. Anzi, il problema diventa quando si infiammano. Certo, quando si infiammano, quando sanguinano, quando possono trombizzarsi, hai capito? Esattamente come le varici delle gambe, hanno delle vere e proprie tromboflebiti. In quel caso vanno gestite e curate. Allora, diciamo, in linea di massima l'intervento è un intervento che si dice conservativo, cioè si tende a eliminare il problema dell'infiammazione con una correzione dello stile di vita, aumentando le fibre, e a volte si possono prendere dei lassativi che rendono più morbide le feci, in modo che quando passano nell'albero non lo infiammano, migliorando l'attività fisica, riducendo la vita sedentaria. Però è ovvio che ci sono volte in cui le varici emorroidarie sono sfiancate, fanno delle trombosi molto spesso, in quel caso serve l'intervento chirurgico. E il concetto qual è? Come si vedono? Innanzitutto il modo più semplice è proprio una banale esame obiettivo. Dobbiamo sempre dimenticarci che alla base della medicina vi è l'obiettività, cioè fare una vera e propria visita del paziente, vedere la presenza delle emorroidi, fare un'esplorazione rettale. In altra maniera si può ovviamente fare l'esame che si chiama rettoscopia, che è l'esame che vede realmente anche dall'interno l'entità e come sono queste emorroidi. Come sono queste emorroidi? Un concetto molto importante che ha detto Stefano, è vero che lui soffre di emorroidi tanto tempo, però mi ha detto anche che ultimamente aumentava la qualità di sangue nelle feci. Questo può essere un sintomo d'allarme, per cui uno deve stare molto attento a non etichettare come è una patologia emorroidaria qualcosa che viene per un altro motivo, cioè non necessariamente uno che ha emorroidi può avere un'altra patologia. Quindi il concetto è, se cambia la modalità con cui uno va di corpo, o se cambia ad esempio l'emissione di feci, la colonscopia, cioè l'esame che esplora tutto il colon, va sempre tenuta in considerazione, perché tutti noi potremmo avere anche due patologie, certo, un polipo sanguinante e delle emorroidi, quindi va contestualizzato nella sua storia clinica e in come sono modificate le sue abitudini di svuotare l'alvo. Andiamo a Bologna, ci aspetta Vincenzo, 800 24 0024. Buongiorno Vincenzo, benvenuto. Buongiorno Nicoletta, complimenti andando per la trasmissione. Grazie Vincenzo. Io quello che avete detto ce l'ho tutti. A tutto lei Vincenzo. C'è lo stomaco, c'è la pancia gonfia, stitico, un po' di emorroidi, insomma non ci Vincenzo, non ci facciamo mancare nulla, e va bene. Esatto. Vediamo se possiamo eliminare qualcosa. Ok. Lei, quindi, questa, io penso, professor Gasbarini, che la telefonata di Vincenzo, che si ritrova completamente rispecchiato nella nostra scheda, ci dia modo di, lei in parte l'ha già fatto, di sottolineare quelli che sono i segnali sospetti. Sicuramente il sangue nelle feci non va trascurato, i cambiamenti improvvisi dell'attività del nostro intestino, quale altra raccomandazione possiamo aggiungere? Diciamo che è fondamentale anche la correzione dello stile di vita. Ad esempio, classico, noi d'estate tendiamo a fare, questo è anche ovviamente assolutamente corretto, più attività fisica e in qualche modo noi beviamo meno. Ricordiamoci sempre che una buona componente delle feci è proprio data dall'idratazione e dall'acqua. Quindi è ovvio che bisogna stare attenti, soprattutto nel periodo estivo, a non interpretare come una malattia un qualcosa che è dovuto solo alla variazione del nostro stile di vita e quindi alla modifica del modo in cui mangiamo o in cui beviamo. Riguardo sempre a quello che diceva l'ascoltatore di prima, il concetto fondamentale è vedere se compaiono altri sintomi d'allarme. I più banali l'abbiamo detto, modifica dell'alvo, presenza di feci nell'alvo, ma l'altro potrebbe essere un calo di peso, potrebbe essere una febbricola, potrebbero essere dei dolori addominali, e non c'è dubbio, non so, un meteorismo, un gonfiore che prima non c'era. E non dimentichiamoci che l'intestino è un unico tubo che va dalla bocca fino all'orifizio anale, quindi non c'è dubbio che anche un problema, ad esempio, di reflusso gastroesofageo, di dolori addominali alti che prima non c'erano, può essere un'espressione di una patologia del tratto terminale dell'intestino. Quindi non sottovalutiamo mai nulla, però ovviamente poi non andiamo a valutare e a impressionarci per disturbi che in realtà, se analizziamo bene la nostra storia, ci sono da tanto tempo. Professore, però mi dica se sbaglio, anche alcuni farmaci possono provocare stitichezza o dare diarrea, anche se ogni intestino la pensa un po' a suo modo e reagisce di conseguenza. È quello che per qualcuno può funzionare come lassativo, per altri funziona da astringente. Voglio leggere alcuni messaggi, ad esempio Alberto: ero stitico, adesso invece del tè del mattino mi faccio un cappuccino e sono un orologino, ti dà il suo consiglio in rima. E ce ne sono altri, molti centrati sul latte, ad esempio molte persone bevendo il latte al mattino riescono a regolarizzare l'intestino. Ma io oltre agli alimenti vorrei che lei ci facesse un po' un elenco anche di alcuni farmaci che possono dare un po' fastidio al nostro intestino. Guardi, questa è una domanda interessantissima, perché penso soprattutto non alla so nostra... come mi sia venuta no, ma è bellissima, perché calcoli che in Italia, se noi prendiamo la popolazione che ha un'età superiore diciamo ai 55-60 anni, quasi tutti prendono qualche farmaco, penso, non lo so, al diabetico, alla persona ipertesa, al cardiopatico, ecco, tutte queste categorie di farmaci, tutte, dagli antinfiammatori non steroidei, aspirina e simili, ai farmaci beta bloccanti, ai farmaci per la pressione arteriosa, ai farmaci del diabete, oltre ovviamente alle complicanze del diabete, ai farmaci che si usano per il Parkinson, per l'Alzheimer, quasi tutte queste categorie di farmaci, dato che sono farmaci ovviamente potenti, hanno un effetto anche sull'intestino. Quindi in alcuni casi lo possono accelerare, in alcuni casi possono ridurlo, quindi possono determinare diarrea e stitichezza. Quindi assolutamente corretta l'osservazione. Quando introduciamo un farmaco nuovo, stiamo attenti a una possibile alterazione della motilità intestinale, perché potrebbe essere un effetto, tra virgolette, collaterale di questo farmaco, che in alcuni casi potrebbe essere anche un effetto benefico, no? Una persona stitica che prende un farmaco che gli accelera lievemente la motilità intestinale, non prende è due piccioni con una fava. Certo. Professore, lo sappiamo che i disturbi intestinali sono spesso autogestiti, e come succede per altre situazioni, a voi medici la cosa non piace, preoccupa, perché in alcuni casi potrebbe davvero essere pericolosa. Affronteremo questo tema tra poco, ma intanto mi dia una buona ragione, la dia ai nostri ascoltatori, per evitare la cura fai da te. una rapida e poi ci ritorniamo, perché adesso tra poco andiamo ai mercati. Beh, il grande rischio della cura fai da te è che andiamo a sottovalutare una patologia importante sottostante e noi ritardiamo delle diagnosi assolutamente fondamentali. Penso sempre al classico problema che non dobbiamo mai dimenticare di dire, il rischio di tumore del colon, che spesso si manifesta con un'alterazione dell'alveo, sia in stitichezza che in diarrea. Siamo tornati, sono le 11.33, abbiamo in linea il professor Gasbarrini, parliamo di intestino che fa i capricci, funziona male, poco, ci dà qualche problema, abbiamo questa sensazione di mancato svuotamento, come ha detto il professor Gasbarrini, non siamo soddisfatti di lui, insomma. Ci chiama Lucia dalla provincia di Arezzo, buongiorno Lucia. Buongiorno. Che problemi le dà il suo intestino? È questo, che abbastanza spesso avverso dei dolori addominali alti, molto molto intensi, che girano anche un po' dietro la schiena e addirittura certe volte l'innervazione, il dolore arriva, incredibile da dirsi, in bocca, ad un molare. E tempo fa, per altri motivi, fui ricoverata, sì, alcuni anni fa, e mi fecero una diagnosi di colon irritabile dopo un clisma opaco che tra l'altro mi dette poi come conseguenze dolori tremendi. Sì. Allora io non ho capito bene quando, in quali circostanze mi vengono questi dolori. Ho provato a eliminare anche il latte ritenendolo pesante dopo anni e anni che lo bevevo. Mi chiedo che cosa posso fare, quali indagini per capire bene e se c'è pericolo che questa sintomatologia sia sintomo di qualcosa di più grave che un domani può degenerare. Ecco, questo è il... Grazie Lucia. Professor Gasbarrini, questi violenti... Sì, no, ma Lucia ha toccato un concetto molto importante. Innanzitutto ha parlato di clisma opaco. Il clisma opaco è un esame assolutamente importante, perché è un esame radiologico che ci permette di vedere come è fatto il nostro colon. Il nostro colon classicamente ha un aspetto a C, no? C'è un colon che sale, un colon trasverso, un colon che scende, poi il sigma e l'ampolla rettale. Molto spesso il colon può essere molto lungo e questo si chiama in termini medici dolico colon, cioè un colon più lungo e più convoluto che di norma. È ovvio che un colon più lungo e convoluto ha una motilità più lenta e spesso può determinare stitichezza, può determinare formazione di aria. Perché formazione di aria? Dentro il nostro intestino ci sono circa un chilo e mezzo di batteri, che sono batteri assolutamente fondamentali, fanno parte della cosiddetta flora batterica. Questi batteri fermentano buona parte di quello che noi non mangiamo e soprattutto quasi tutte le fibre. Questa fermentazione, che è un processo fondamentale per l'organismo perché produce vitamine, produce energia per l'epitelio intestinale, produce proprio anche gas. Quando questi gas sono in eccesso si ha la sensazione di meteorismo. Questi batteri intestinali non sono solo nel colon, ma possono essere anche nell'intestino tenue. Quindi non c'è dubbio che disturbi che hanno una partenza colica poi possono irradiarsi anche ad altri distretti dell'intestino. E quindi la sintomatologia, che inizialmente è una sintomatologia del colon, può poi diffondersi a una sintomatologia dell'addome, dell'addome anche alto, fino a realizzare dei sintomi, come quelli di cui diceva la signora, che sono anche sintomi delle alte vie digestive. Un altro concetto, quello del latte, di cui si era parlato un po' prima. Sì. Moltissimi sono gli italiani che hanno una intolleranza al lattosio. Marco, mi scusi, così approfitto, perché Marco da Firenze mi sta mandando diversi messaggi e dice che dall'estate 2006 il latte vaccino fresca ha effetti lassativi di meteorismo su di me e su alcuni conoscenti. Ho provato varie marche, che cosa è cambiato? Siamo cambiati noi, è cambiato il latte? Non si sa. No, in realtà no, diciamo che qui entriamo in concetti di genetica che deriva proprio dalle radici dell'uomo, cioè una volta noi dobbiamo ricordarci che una volta non esistevano delle modalità di conservazione del latte e dei latticini, non c'erano i frigoriferi, quindi non c'è dubbio che il latte una volta si usava nei primissimi mesi, assolutamente fondamentale nella vita, poi si perdeva la tradizione a bere del latte, no? Per cui soprattutto in tante popolazioni non ci sono questi enzimi. Calcolate che nella popolazione africana quasi l'80% 100% degli africani perde le lattasi, che l'enzima è in grado di degradare il lattosio, che è lo zucchero contenuto nel latte, e non tollera il latte. Ma questa non è una malattia, è una conseguenza genetica, forse un qualche meccanismo di protezione quando mancavano i refrigeratori. In Italia 20-30% degli italiani possiede poco di questo enzima, per cui tende a non tollerare elevate quantità di lattosio, elevate quantità di latte, ma alcuni usano questo come un rimedio. Sì. Qui torniamo alla domanda di prima, no? Cappuccino del mattino, vado di corpo, certo, hai un'intolleranza intolleranza al lattosio, determina un'aumentata produzione di gas, aumenta la motilità, lo usi per andare in bagno. È un piccolo rimedio che usano molti intolleranti al lattosio. Io vorrei salutare, perché ci ha raggiunto, il professor Salvatore Cucchiara, che è primario di gastroenterologia pediatrica alla Sapienza di Roma. Professore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Professore, io ho bisogno di lei, perché anche l'intestino dei piccoli può fare capricci, e infatti la stitichezza non risparmia, lo sappiamo bene, certo. Anche neppure i nostri bambini. Allora, come prevenire questo disturbo e soprattutto come affrontarlo? Perché, professore, da mamma mi ricordo che c'è un periodo particolarmente delicato nella vita dei nostri bambini, che coincide con il passaggio dal pannolino al vasino. Certo. E iniziamo da qui, perché è proprio in questa fase di transizione che può spuntare il problema stitichezza. Sì, io innanzitutto vorrei rassicurare le mamme che ascoltano dando un messaggio molto rassicurante, tranquillizzante. La stipsi del bambino, nella stragrande maggioranza dei casi, è una stipsi che non richiede indagini, che non richiede ricoveri, non richiede consulenze specialistiche, ma deve essere affrontata dal pediatra di famiglia in particolare, con un approccio comportamentale, un approccio anche farmacologico. Però rispetto alla domanda che lei mi pone, io identifico nel passaggio, nel momento in cui il bambino comincia a camminare sempre più frequentemente, il secondo anno di vita, il terzo anno di vita, il momento cruciale in cui può svilupparsi una stipsi è il momento dell'educazione alla toilette, il momento in cui la mamma comincia a togliere il pannolino, il momento in cui il bambino deve essere abituato, ovviamente in un clima di serenità, di dolcezza, all'uso del vasino. Quello può essere un momento delicato sul piano psicologico, sul piano comportamentale, quindi lì bisogna avere molto tatto, e quello è il momento in cui inizia ad aversi una stipsi. Una stipsi che, ripeto, per tranquillizzare le mamme, è una stipsi quasi sempre funzionale. Funzionale vuol dire che non è organica, quindi non è su base organica, su base infiammatoria, ma è una stipsi dovuta al transito rallentato. In questa educazione al vasino, che mi sembra di capire sia molto importante per aiutare il nostro bambino ad avere una regolarità intestinale, ha qualche suggerimento da darci? Ma io consiglierei alle mamme soprattutto di sfruttare il momento dopo il pranzo, dopo la cena, il momento postprandiale, perché in quella fase si sviluppa fisiologicamente uno stimolo a defecare, che è il famoso riflesso gastrocolico. Allora, sfruttando la presenza di questo riflesso che viene indotto dal cibo, il bambino può essere invitato con molta dolcezza a usare il vasino, senza coercizione, senza minacce, magari coinvolgendolo in un atto collettivo della famiglia. A volte queste cose funzionano, sì. Anche con delle gratificazioni, ecco. Certo. Però vorrei anche dire alle mamme, attenzione, quando loro pensano che il bambino si stia sforzando per defecare, in realtà spesso è uno sforzo di antagonismo, cioè il bambino non vuole defecare perché probabilmente ha l'ano arrossato, ecco, una delle cause più frequenti è un arrossamento anale, dolore, e quindi il bambino trattiene ulteriormente, poi sì. Le feci diventano sempre più dure, sempre più difficili da evacuare, quindi un'ispezione anale che il pediatra può benissimo fare, non esplorazione per carità, ispezione anale, guardare sì. Bene l'ano nel bambino con una luce, con un'adeguata fonte luminosa, il pediatra individua la presenza di un arrossamento e delle creme anali, molto spesso di origine vegetale, che contengono anche delle sostanze lenitive del dolore, chiamiamole anestetiche, ma non si tratta di prodotti anestetici, di prodotti emollienti che diciamo leniscono il dolore, aiutano molto nel processo di educazione alla toilette. Abbiamo in linea con noi Antonia, ci chiama da Reggio Emilia, vediamo se ha bisogno del professor Gasbarrini o del professor Cucchiara. Buongiorno Antonia, benvenuta. Buongiorno Nicoletta, complimenti per la trasmissione. Grazie Antonia, mi dica. Ascolti, io chiedevo per il bambino di mia figlia che ha quasi 10 mesi. Sì. E da quando ha iniziato il svezzamento è diventato stitico, che insomma ha provato, deve fare sempre cristerino, se no non ci va. Se no non riesce. Antonia, allora la sua è una domanda che voglio girare al professor Cucchiara. Professore, il nipotino di Antonio è piccino, ha 10 mesi. Sì, a 10 mesi, ha detto la signora, nel momento in cui è passato allo svezzamento, intendo ha cominciato a assumere latte vaccino, alimenti solidi. Questo effettivamente è un momento in cui può verificarsi. È chiaro che il bambino che prende il latte materno ha una maggiore frequenza di defecazione, il bambino che prende il latte materno va spesso in bagno. Quando passa al latte artificiale, al latte vaccino, diventa tendenzialmente stitico. Questo si verifica perché cambia la flora batterica intestinale, l'alimento è più denso, quindi in questi casi anzitutto io consiglierei di non dare lassativi, di non dare rammollitori fecali. Il bambino può essere aiutato con per esempio degli zuccheri che fermentano, degli zuccheri che cambiano la consistenza delle feci, le maltodestrine per esempio, le maltodestrine sono molto utili. Sono utili anche, secondo alcuni, l'aggiunta di probiotici, cioè i famosi fermenti lattici, che sono dei lattobacilli che aiutano una flora fermentativa, perché per esempio la cacca e le feci del bambino piccolo allattato al seno è di natura acida, fermentativa, quella invece del bambino in cui predomina il latte vaccino è più putrefattiva, diversa. Quindi devo dire che questa è una situazione che spesso si verifica, ma che è risolta sempre col consiglio del pediatra, con piccoli aggiustamenti alla dieta. Certo. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, è stato rassicurante e chiaro, proprio quello che ci vuole per noi mamme. Grazie professore, buon lavoro. Professore, diamo la linea a Cesare da Bologna e poi torniamo a parlare del problema lassativi, quando, come, perché e nel caso quando non servono e come sostituirli. Cesare, buongiorno. Buongiorno, ho 50 anni, ho avuto 5 anni fa un grosso problema di intestino, andavo in bagno da 20 a 30 volte al giorno. Caspita. Sì, problemi molto molto particolari, ho perso 18 kg in 40 giorni, mi hanno fatto gastroscopia, coloscopia, crisma del tenue. Sì, insomma l'hanno risvoltata come un calzino, come diciamo noi. Contaminazione batterica del tenue e intolleranza alimentare multipla. E non mi hanno dato nessuna cura perché mi hanno detto effettivamente non hai niente, non abbiamo trovato niente da poter dire. Evitiamo il problema. Io a volte mangio mozzarella, non ho nessun problema, a volte mangio un cioccolatino, disastro. Non ho mai trovato qualcosa che se lo mangio due volte mi faccia star male. Ho capito. Io non so se il professor Gasbarrini, con queste indicazioni di Cesare, è in grado di trovare o di fare un'ipotesi di colpevolezza, però professor Gasbarrini... Beh, diciamo che il dato è interessante, sicuramente c'è un qualche cosa che è successo di diverso nel passato, cioè quella volta che lui ha avuto 20-30 scariche al giorno, ovviamente quello non era determinato a una forma di intolleranza e allergia di cui aveva da tempo, questa è una cosa nuova ed è verosimile che questa sia stata una infezione verosimilmente su base virale, ci sono moltissime infezioni da cosiddetti enterovirus, il rotavirus, l'adenovirus, che danno una gastroenterite acuta. Questo concetto però è estremamente importante perché noi vediamo che moltissime delle persone che sviluppano il cosiddetto intestino colon irritabile hanno avuto nel passato un evento acuto, che è un evento virale o batterico virale, insomma un evento infettivo. A questo evento infettivo poi ha esitato una sensazione di disconforto addominale, cioè di colon irritabile. Quindi se uno volesse interpretare, un evento acuto che ha avuto il nostro amico è stato poi il trigger per il realizzarsi di un colon irritabile. Quando poi andiamo a vedere le cause di colon irritabile, all'interno di esse vi sono molto spesso delle forme di intolleranza alimentare. Teniamo ben distinta allergia da intolleranza. L'allergia è una cosa fortunatamente rara, è implicato il sistema immunologico. L'intolleranza invece è una problematica in genere non legata al sistema immunologico, molto frequente, spesso dovuta a deficit enzimatici. Quando lui dice io quando mangio mozzarella ho spesso diarrea, gonfiore e altro, potrebbe essere una intolleranza al lattosio, torniamo al discorso di prima, che si è slatentizzata successivamente a una brutta gastroenterite virale. Però ovviamente qui bisognerebbe fare tutta una serie di esami che ovviamente andrebbero interpretati, però è interessante, evento acuto e successivamente sviluppo di un colon intestino irritabile. Quindi è un po' la conseguenza di questo evento acuto, che è stato un evento. Senta professore, andiamo ai lassativi, no? Proviamo, quando possiamo usarli e di che tipo? Perché ce ne sono di diversi tipi. Ad esempio, la stitichezza dura qualche giorno. Cosa possiamo fare? Magari ci siamo spostati, abbiamo cambiato, siamo andati in albergo. Capita molto spesso cambiando letto, cambiando bagno, cambiando abitudini, passando dalla vita di tutti i giorni alla vacanza, che il nostro intestino si blocchi. In questi casi cosa bisogna fare? Tecnicamente la cosa più semplice del mondo, aumentare l'introduzione di frutta e verdura e bere molto. Questo è il rimedio più banale di tutti. Molte volte quando uno fa dei viaggi, quando uno fa dei viaggi in aereo, quando arriva nei posti, molto spesso che cosa fa? Si disidrata, beve meno e spesso cambia l'alimentazione. Quindi se possibile ritornare all'abituazione alimentare. Prima di prendere ogni tipo di farmaco, ritornare alle corrette abitudini. Quindi mangiare frutta e verdura e bere molto. Questo è il primo rimedio. Ma piccole perettine come come ma, mi diciamo suggerisce Carla? I lassativi, i cosiddetti lassativi, si dividono in due grandi categorie, no? I lassativi da contatto, quelli che sono irritanti, e questi, se possibile, andrebbero evitati. Come facciamo a riconoscerli? Quali sono? Diciamo che sono quei lassativi, ora non entriamo nei termini commerciali, quei lassativi che utilizzano soprattutto una capacità irritante sulla mucosa intestinale. Quindi in qualche modo, irritando l'intestino, lui si contrae e quindi noi abbiamo un'evacuazione. Sì. I lassativi da privilegiare, giriamolo sull'altro versante, sarebbero i lassativi cosiddetti lassativi di massa o osmotici. Sì. Ad esempio, i lassativi di massa, ci sono tantissime fibre commerciali. Che cosa fanno? Ci danno quello che noi non prendiamo. Sai, ci sono tante persone quando prendono i vegetali aumentano il gonfiore, no? Io dico, io prendo l'insalata, prendo gli spinaci e io sono talmente gonfio che non riesco a prenderli, io ne prendo poco. O tante persone, penso ai bambini, no? Che molto spesso non mangiano le verdure. Ecco, in questo caso un lassativo di massa, quindi un lassativo con molte fibre, ci ce ne sono tante in commercio, è estremamente utile perché ci dà tutta quella massa su cui i batteri intestinali riescono a fermentare, produrre gas e aumentare la motilità, e bere molto. Senta professore, però lo sappiamo che ci sono persone che da anni usano lassativi. Mm-hmm. E che no, quindi non ne possono fare a meno, cioè sì. Li prendono un po' come si prende la pillola per la pressione alta, no? Ci sono tante scatolette, si va spesso a casa delle persone anziane, ci sono tra le varie scatolette di farmaci, c'è sempre il lassativo. Ora, non si può buttare alle ortiche da un giorno all'altro, che cosa si può fare? Allora, diciamo questo, l'atteggiamento che uno tende ad avere è questo, il lassativo, chiamiamolo da contatto, che sono le pillole che molti prendono, che sono lassativi irritanti, molto presenti soprattutto negli anziani, è ovvio che non è che uno li può abbandonare da un giorno all'altro perché sulla carta danno irritazione. Bisognerebbe, per quanto possibile, sostituirli o integrarli con dei lassativi, chiamiamoli più sani, più fisiologici, e quindi lassativi che non determinano irritazione sulla parete del collo. E anche perché è ovvio che se un intestino è abituato a usare da tanti anni un lassativo da contatto irritante, una volta che tu glielo togli, quello è un intestino che è abituato a essere stimolato per svuotarsi. Per cui diciamo che fondamentalmente si possono lasciare quelli, bisogna reintrodurre gli osmotici, reintrodurre quelli che si chiamano adesso lassativi che formano massa, quindi fibre alimentari solubili e insolubili, e in commercio ce ne sono assolutamente tantissimi, molti pubblicizzati, sono prodotti da banco, e collateralmente, una volta che l'intestino è un po' ripartito, con una buona idratazione e con anche andando a vedere i farmaci che la persona sta facendo, solo a quel punto cominciare a ridurre lentamente i lassativi cosiddetti da contatto irritanti, che invece andrebbero usati solo al bisogno, ha capito? Non andrebbero usati come lassativi quotidiani. Il concetto è chiaro. Sono delicata di intestino, ci scrive un'ascoltatrice, ma non si firma, fin da piccola ho imparato a non prendere lassativi bevendo almeno 2,5 litri d'acqua, mangiando se possibile piccole quantità di fagioli la sera, tante verdura cruda, poca carne rossa, faccio sport, poi mi ascolto, non è indispensabile andare in bagno tutti i giorni. Professore, mi sembra un vademecum buono questo. Assolutamente corretto. 10 lode. Ha messo tutto. Ha messo tutto. Sana alimentazione, ha messo una grande quantità di fibre, ha messo delle fibre anche che uno spesso non considera, come i fagioli, che sono un'eccellente sorgente di fibre, ha messo un'ottima idratazione, ha messo l'attività sportiva, sono sicuro che anche una persona in buona forma fisica, che fa una vita serena e gratificante, mi sembra che abbia messo tutto quello che bisogna suggerire. Magnifico, questo ce lo teniamo come vademecum. Tino ci chiama da Treviso, buongiorno. Buongiorno. Siamo qua. Io la chiamo perché sono stato operato un anno fa, giusto? Sì. Per diverticolismo gli hanno levato l'ultimo pezzo del colon. Sì. Ora, io pensavo di aver risolto il problema, però diciamo vado spessissimo al bagno. Spessissimo, scusi Tino, ormai insomma, siamo... 3, spessissimo 4, cosa vuol dire? Se sono a casa anche 5-6 volte. Mi sembra quasi fosse un fattore psicologico, perché quando arrivo a casa sembra una cosa, entro la porta di casa devo fare le corse. Sì. E poi rimango... Sperando di trovare il bagno libero. Sperando. Ecco, a casa mia con due ragazze giovani il bagno è sempre occupato, si pettinano, eccetera, sarebbe un problema. Ah beh, se c'è mia figlia sono... Ecco, vede, bisogna non avere figli adolescenti. Ecco, la domanda rapidamente, così prima di salutarci il professor Gasbarini le dà un'indicazione? Si può fare qualcosa, perché sto a fare qua, anche perché sono uscito dall'ospedale molto giù di peso, perché mi hanno operato un po' in ritardo. Adesso cerco di recuperare, ma però si fa sempre queste corsette, si fa poi fatica perdendo continuamente liquidi, non riesco a allora, a recuperare più di tanto, pur facendo ginnastica, pur muovendomi, pur tutto certo, quello, bevendo acqua in quantità enormi, sono stemio. Professor Gasbarrini, un aiuto rapido per Tino. Tino ha sollevato un problema importante. La sua è un disturbo dell'alveo, cioè un alveo diarroico secondario a un'alterazione anatomica dell'intestino. Sì. La malattia diverticolare di per sé è ovviamente una malattia del colon, quindi diciamo del serbatoio metabolico del nostro organismo. È ovvio che se uno per una brutta malattia diverticolare deve andare incontro a un intervento di resezione del colon, ora qui non abbiamo detto, non ho idea di quale sia, però diciamo sì, probabilmente ha eliminato il sigma, il colon di sinistra, è ovvio che si è dimezzata la lunghezza del colon. E quindi? Essendosi dimezzata la sua lunghezza, è ovvio che la capacità del colon e dei batteri intestinali di riassorbire acqua, d'accordo, è ridotta. Quindi non c'è dubbio che spesso si va incontro a una diarrea. Allora il punto qual è? Primo punto, bisogna aspettare che l'organismo si abitui a questa nuova condizione anatomica. Quasi sempre, dopo 12, 14, 18, 20 mesi, l'intestino si riabitua, ricrea un serbatoio metabolico e il colon che rimane è in grado poi di assorbire tutta l'acqua. Quindi, professor Gasbarrini, tempo qualche mese anche per Tino il problema dovrebbe risolversi, almeno ce lo auguriamo. Professore, io la ringrazio per essere stato con noi, è stato chiarissimo, grazie, ci sentiamo presto, buona giornata. Grazie Nico, arrivederci. E adesso cambiamo decisamente argomento, parliamo dei nostri piedi, o meglio di infradito. Un tempo si vedevano solo in spiaggia o al massimo lungo i bordi di una piscina, e invece da qualche anno ormai popolano anche i marciapiedi cittadini perché sono diventate di moda. Di sicuro tengono fresco il piede, secondo me in città non dovrebbero essere messe, soprattutto dagli uomini che non si fanno la pedicure, si vedono dei piedi terribili in giro, ma vediamo se piacciono ai nostri piedi. In linea con noi abbiamo il dottor Antonio Mimeo, dirigente medico all'Istituto Ortopedico Gaetano Pini di Milano. Dottore, buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Non so se lei concorda con me. Assolutamente sì, magari belli no, ma almeno curati, perché vedere certe patologie delle unghie o delle dita del piede che girano per le città, qualche volta addirittura anche per gli ospedali, non è bellissimo dal punto di vista estetico. Ecco, allora, estetica a parte, per il benessere dei nostri piedi, le infradito fanno bene o fanno male? Allora, se il piede non soffre di patologia, l'infradito è sicuramente amico. L'ideale sarebbe un infradito con una suola un po' spessa, non la classica giapponesina di una volta, ma proprio una rigida di suola, ma una suola un po' spessa che attutisca gli urti contro il pavimento o contro i marciapiedi della strada, quindi dove il piede appoggia. Perché se no si possono instaurare delle patologie come delle tendinopatie del tendine d'Achille o come patologie del calcagno o altri disturbi tipo spina calcaneale o fascite plantare. Di controverso va bene se uno soffre di alluce valgo con borsite, che piuttosto di mettere una scarpa stretta va benissimo un infradito. Dottore, io la ringrazio per essere stato con noi, lei le porta? Mai. Solamente in piscina. Grazie dottor Memeo, buona giornata. Buona giornata, arrivederci. E buona giornata a voi che ci avete seguito ed ascoltato. Appuntamento come sempre domani dopo il GR delle 11:00.